Quando gli uomini si furono sufficientemente allontanati, Finia si ridiede motto. «Bisogna scendere», disse egli, «e fare a piedi un tratto di strada. Ho raccomandato a Michele di andare in cerca di aiuto e di tornare con la carretta, ma guadagneremo tempo andando loro incontro. Dio voglia che sopraggiunga presto, è ancora di buon mattino. Solo 2 miglia restano da percorrere di qui alla nostra destinazione, dove già saremmo se la strada non fosse tanto cattiva». Dopo aver scavalcato la siepe, i fuggitivi scorsero da lungi la loro carretta che tornava con l'accompagnamento di alcuni uomini a cavallo. Evviva! Eccoli qua, Michele, Steven e Amaraia! Gridò allegramente Finia. Ora siamo sicuri come se già fossimo arrivati. Fermiamoci dunque, pregò Eliza, e facciamo qualche cosa per quel povero uomo. Egli manda dei lamenti che spezzano il cuore. Adempiremo il dovere di cristiani soccorrendolo, disse Giorgio. Poniamolo nella carretta. Già, perché vada a farsi medicare presso i quaccheri, disse Finia. Ovviamente, ottimamente. Vediamo in che stato è. Ciò detto, egli, che quando faceva la vita da cacciatore aveva acquistato le nozioni più elementari della chirurgia, si inginocchiò presso il ferito per esaminarne diligentemente la piaga. Marx, disse Tom Locker con voce fievole, sei tu, Marx? No, davvero, amico, rispose Finia. Marx si prende ben poco pensiero dei fatti tuoi. È solamente sicura di salvare la sua pelle. Egli se l'è svignata già da un pezzo. Oh, credo che per me sia finita, disse Tom Locker. Oh, vile, maledetto cane. Mi lascia morire qua solo. La mia povera vecchia madre me l'aveva ben predetto che finirai così. Per amor di Dio, uditelo, povera creatura. Ha una madre anch'egli, disse la vecchia nera. Non posso fare a meno di provarne compassione. Adagio, adagio, non è il momento questo di ringhiare né di mordere, disse Tom, disse Finia a Tom che si dibatteva e lo respingeva coi calci e coi pugni. Tu sei spacciato se non ti faccio ristagnare il sangue. E Finia si affrettò a fare una prima medicatura col suo fazzoletto da naso e con quanto poté raccogliere dagli altri. Voi siete quello che mi ha gettato qua giù, disse Locker con voce semispenta. È vero? Ma se io non ti prevenivo, avresti fatto fare a noi il salto medesimo, replicò Fine abbassandosi per fare la fasciatura. Sta fermo e lascia che io ti medichi. Noi non ti vogliamo alcun male né ti serbiamo rancore. Tu sarai trasportato in una casa dove avranno ogni cura di te, come potrebbe fare tua madre stessa. Tom Locker mandò un gemito e chiuse gli occhi. Negli uomini della sua specie il vigore e la risolutezza non sono se non una parte della costituzione fisica e vengono meno con l'uscire del sangue. Lo stato di abbattimento in cui era quel colosso offriva uno spettacolo compassionevole. L'altra comitiva sopraggiunse, furono tolti i sedili dalla carretta, distese da una parte le pelli di bufalo e 4 uomini a grande stento sollevarono il ferito e ve lo deposero. Prima però che vi fosse collocato, egli cadde in deliquio. La vecchia nera, nell'eccesso della commiserazione, sedette in fondo al carro e appoggiò la testa di lui sopra le sue ginocchia. Elisa, Giorgio e Jim si accomodarono come meglio poterono dall'altro lato del veicolo, che si rimise in cammino. «Che ne pensate?» chiese Giorgio a Finia presso il quale era seduto. «La ferita non è profonda, ma le contusioni e le scalfitture fattesi nella caduta aumentano le sue sofferenze. Egli perde molto sangue e insieme tutto il coraggio, ma si riavrà e sarà per lui, lo spero, una lezione salutare. Sono contento di quanto mi dite, riprese Giorgio. Il pensiero di aver dato la morte a un uomo mi sarebbe stato sempre doloroso, benché la mia causa fosse giusta. Eh sì, davvero, disse Finia. L'uccidere qualcuno, uomo o bestia, è sempre una bruttissima operazione. Io fui tempo addietro un gran cacciatore e posso dirti che ho veduto più di un daino ferito e moribondo guardarmi con certi occhi che mi facevano proprio pentire di averlo ammazzato. Beh, se poi si tratta di un uomo, la cosa è ancora più grave perché, come dice tua moglie, dopo la morte viene il giudizio. Perciò le idee degli amici non mi sembrano su questo troppo severe e, considerata la mia primiera educazione, si vedrà come mi sia agevolmente conformato ai loro sentimenti. Che faremo di questo povero diavolo? Lo trasporteremo in casa di Amaraia. La sua nonna, che chiamano Dorcas, è un'infermiera che non ha l'eguale. Cosa innata in essa, tanto che sembra felice solamente quando è al capezzale di un uomo che occorra medicare. Grazie alle sue cure, per 15 giorni al più, il tuo ferito ritornerà in gamba. In capo a un'ora, la brigata giunse a una bella fattoria dove un'abbondante colazione era preparata. Tom Loker fu posto diligentemente in un più pulito e più soffice posto di quello che era solito occupare. Gli medicarono e fasciarono la ferita ed egli, steso supino come un fanciullo, stanco, apriva e chiudeva gli occhi languidamente e volgeva gli sguardi sulle tende bianche della finestra e sulle persone che passavano tacite nella cameretta. Noi lo lasceremo momentaneamente in questa situazione per fare il ritorno allo zio Tom. 18. Tribolazioni di Miss Ofelia. Il nostro amico Tom, nella sua mente ingenua, paragonava spesso la sua avventurata sorte nella schiavitù che doveva sopportare con quella di Giuseppe in Egitto. E per verità, di mano in mano che scorreva il tempo e che le pregevoli qualità di Tom erano sempre meglio apprezzate dal suo padrone, l'analogia diveniva più sensibile. St. Clair era indolente e curava poco il denaro. Adolfo aveva fino allora avuto l'ufficio di provvedere la casa e siccome su questo punto egli era non meno negligente di St. Clair medesimo, le cose andavano in modo che il denaro pareva avesse le ali, ma Tom, assuefatto da parecchi anni a considerare come suoi propri gli interessi del padrone, aveva, non senza dolore, osservato che St. Clair reprimeva a fatica quelle spese pazze. E talvolta, con quei modi pacati e indiretti, di cui gli schiavi sanno valersi a meraviglia, si permetteva timidamente qualche osservazione. Sulle prime St. Clair si servì di quando in quando dell'opera di Tom, ma ben presto, maravigliato della sua idoneità agli affari, si fidò maggiormente di lui finché a poco tutte le compre e provviste domestiche furono commesse a lui solo. «No, no, Adolfo», disse St. Clair un giorno in cui Adolfo si doleva di aver perduto il suo potere di prima. «Lascia in pace Tom. Tu sai soltanto quello di cui c'è bisogno, ma Tom ne conosce il costo e fa ottimamente i miei affari. E vedi, Adolfo, se qualcuno non vi mette riparo un giorno o l'altro, ci potremo trovare al verde». Investito così della piena fiducia di questo padrone spensierato, il quale riceveva il denaro senza guardarlo e dava senza neppur contargli i biglietti di banca, Tom avrebbe potuto assai facilmente ingannarlo. Ma la sua inespugnabile schiettezza d'animo, associata ai principi cristiani, non solo impediva a Tom di soccombere alla tentazione, ma anzi gli scrupoli di onestà raddoppiavano in ragione della illimitata fiducia che St. Clair aveva posta in lui. Con Adolfo il caso era stato ben differente, sbadato, amante dei suoi comodi e lasciato in balia di se medesimo da un padrone il quale preferiva di tollerare piuttosto che governare, Adolfo era giunto a tale da confondere del tutto le nozioni del mio e del tuo riguardo al suo padrone e a sé, cosa che era stata cagione talvolta di malumore dello stesso St. Clair. Il buon senso gli diceva che era ingiusto e pericoloso il trattare in tal modo i suoi servi e un certo rimorso cagionato da questa negligenza, ma non forte quanto occorreva per fargli cambiare sistema, lo afferrava spesso. Sfortunatamente a quel rimorso succedeva sempre una reazione verso l'indulgenza consueta e St. Clair chiudeva gli occhi sulle più gravi colpe dei propri schiavi perché confessava a se stesso che ove egli avesse usato dapprima maggior rigore se ne sarebbero forse astenuti. Tom considerava St. Clair, questo suo giovane allegro e spensierato padrone, con un sentimento di fedeltà, di riverenza e di paterna affezione. Egli sapeva che St. Clair non leggeva mai la Bibbia e che mai andava in chiesa, che si beffava liberamente di ogni cosa, che passava la sera delle domeniche ai teatri e troppo sovente si recava al club, alle veglie, alle cene intemperanti, tutte le quali cose provavano a Tom come il suo padrone, non fosse cristiano. Ciò non di meno Tom teneva dentro di sé questa sua convinzione e ogni sera, quando si ritirava in camera, pregava Dio perché lo illuminasse. Non già che egli di quando in quando non si facesse lecita una qualche osservazioncella in proposito. Così, per esempio, un lunedì St. Clair, invitato da alcuni suoi amici a un sontuoso banchetto, era stato ricondotto a casa alle 2 di notte in un tale misero stato che dava a conoscere la vittoria della materia sopra le facoltà intellettive. Tom e Adolfo lo aiutarono a porsi in letto. Quest'ultimo si divertiva molto dell'avventura e rideva sgangheratamente dell'ingenuità di Tom, il quale, angosciato e quasi preso da brividi, vegliò il rimanente della notte pregando Dio per il suo padrone. «Ebbene, che stai aspettando, Tom?» disse la mattina seguente Sinclair, seduto nel suo gabinetto in veste da camera e pantofole. Egli aveva consegnato allora a Tom del denaro e gli aveva dato alcune commissioni. «Non è forse tutto in regola?» continuò Sinclair, vedendo che Tom non si muoveva. «Temo di no, padrone», rispose Tom gravemente. Sinclair posò il giornale e la sua tazza di caffè e si pose a guardare Tom. «Che faccenda è questa, Tom? Tu sei grave e triste come una cassa da morto». «Sì, è vero, sono molto afflitto. Io avevo creduto sempre che il padrone sarebbe buono con tutti». «E non lo sono, forse? Su, via, che cosa desideri? Tu hai bisogno di qualche cosa, suppongo, ed è questa una prefazione della domanda». «Il padrone è stato sempre buono con me e io non ho nulla da lagnarmi, di nulla. Ma c'è qualcuno con cui il padrone non è buono». «Che cosa intendi dire? Che ghiribizzo ti prende? Spiegati». «Questa notte, sulle due, io ci ho riflettuto e ho concluso fra me, il padrone non è buono con se medesimo». Quando ebbe detto queste parole, Tom voltò le spalle e si diede ad aprire l'uscio. Sinclair arrossì, poi mettendosi a ridere, esclamò: «Oh, non c'è altro che questo!» «Sì», rispose Tom, rivoltandosi e inginocchiandosi dinanzi a Sinclair. «Mio giovane e diletto padrone, io temo che voi corriate alla vostra rovina, alla perdita di tutto, corpo e anima. Il buon libro dice: il peccato morde come il serpente e punge al pari del basilisco, mio caro padrone». E i singhiozzi soffocarono la voce di Tom e grosse lacrime gli scorrevano per le guance. «Oh, grullo che sei!» disse Sinclair, che aveva anch'egli gli occhi pieni di lacrime. «Alzati, non merito che tu pianga per me». Ma Tom continuava a stare in quell'umile atteggiamento e guardava Sinclair in modo supplichevole. «Ebbene, Tom, non andrò più a quelle orge maledette, ti do la mia parola d'onore che non vi andrò più. In verità non so perché non me ne astenga già da gran tempo, pur avendole disprezzate sempre, e ho rabbia con me medesimo di non saperne fare a meno. Or su, Tom, alzati, asciuga i tuoi occhi e va per le tue faccende. Andiamo, andiamo», soggiunse, «e non stare a benedirmi. Io non sono abbastanza buono da meritarmi le tue benedizioni, ma ti prometto davvero che non mi vedrai più in quel modo, capisci?» Così dicendo, lo spinse dolcemente verso l'uscio e Tom uscì con l'animo contento e rasciugandosi gli occhi. «Manterrò la parola», disse Sinclair richiudendo l'uscio. E Sinclair mantenne, giacché il sensualismo non era in lui un difetto predominante. Ora, in tutto questo frattempo, chi potrà narrare minutamente le molte tribolazioni della nostra amica Miss Ophelia in quel suo primo attendere alle gravi fatiche di una direttrice di casa del Sud? Gli schiavi degli stabilimenti meridionali differiscono grandemente fra loro secondo l'indole e la capacità delle padrone di casa da cui furono educati. Tanto nel Sud quanto nel Nord vi sono alcune donne dotate di attitudine straordinaria al comando, le quali sanno educare i loro schiavi senza ricorrere a mezzi severi, sanno sottomettere ai loro voleri e stringere in ordine armonioso i vari membri del loro piccolo stato, sanno trarre partito dalle diverse attitudini e bilanciare e compensare sì bene il difetto degli uni con l'eccesso degli altri che ne risulta un insieme ben regolato e armonico. Tale era la signora Shelby, che noi abbiamo già descritta e della quale i nostri lettori possono ricordarsi che se di tali donne vi è difetto nel Sud, non bisogna dimenticare che se non sono comuni in nessun'altra parte del mondo. Nel Sud ve ne sono quante altrove e giova il dirlo, le condizioni speciali della società in cui esse vivono porgono loro un'occasione mirabile di dar prova dei propri talenti domestici. Ma ben altra era l'indole di Maria Sinclair, la quale non differiva punto dall'indole che già aveva avuto sua madre. Frivola e indolente, priva di regole e di previdenza, non poteva aspettarsi che i suoi servi non fossero macchiati della sua stessa pece. Il racconto che aveva fatto alla sua cugina del disordine che regnava nella famiglia era assai veridico, quantunque non ne avesse manifestata la vera cagione. La prima mattina in cui Miss Ophelia entrò in ufficio, era già in piedi alle 4 e dopo aver rassettato da sé medesima la sua camera, come dal suo arrivo in poi aveva sempre fatto, non senza grande maraviglia della schiava detta a suo servizio, prese a esaminare con accuratezza armadi, gabinetti, cucina, dispensa, cantina, magazzini di cui aveva le chiavi. Cose nascoste fino a quel giorno nelle tenebre dovettero uscire alla luce con grande rincrescimento dei domestici che ne levarono alte grida e non risparmiarono motteggi contro le dame del nord. La vecchia Dina, che aveva l'alta direzione della cucina, ardeva di sdegno vedendosi minacciata nei privilegi fino allora goduti. Ai tempi della Magna Carta nessun barone feudatario avvampò di uguale collera contro un usurpamento della corona. Dina era persona di gran conto nel suo genere e sarebbe una mancanza di riguardo se trascurassimo di farla conoscere ai lettori. Era nata essenzialmente cuoca alla pari di Chloe, poiché questa abilità è nella razza africana, ma Chloe era cuoca metodica e istruita. Dina invece era uno di quei geni che si sviluppano da sé, eccentrica e ostinata al più alto grado. Simile in ciò ad alcuni filosofi moderni, ella professava un altissimo disprezzo per la logica e la ragione, qualunque ne fosse la forma, e si rifugiava spesso nella propria certezza intuitiva. E quando si rifugiava in questa sua rocca, non v'era potere umano che riuscisse a smuoverla. L'ingegno, l'autorità, le spiegazioni non valevano a convincerla che un altro sistema fosse migliore del suo, o che questo potesse migliorarsi. La sua antica padrona, la madre di Maria, aveva dovuto chinarsi davanti a quell'inespugnabile convinzione e Miss Maria, come Dina continuava a chiamarla anche dopo il suo matrimonio, preferì la sottomissione alla lotta. Cosicché Dina aveva saputo mantenersi il potere supremo, né ciò le era tornato difficile, essendo espertissima in quell'arte diplomatica che sa unire la più grande ossequiosità di modi, la più tenace inflessibilità d'animo. Dina aveva sempre a disposizione un monte di scuse, anzi era maestra nel fabbricarle. Teneva per massima che chi tiene il ministero della cucina non può mai avere torto. E siccome in una cucina del sud un cuoco ha intorno a sé bastante numero di vittime su cui far ricadere ogni sua colpa e peccato, così a Dina non riusciva difficile di serbarsi pura e immacolata. Se qualche cosa andava male nel pranzo, ella aveva pronte 50 buone ragioni in favor suo e senza dubbio la colpa cadeva su 50 altri individui dei quali ella si sforzava invano di stimolare lo zelo. Peraltro, assai di rado avveniva che Dina mancasse nel compito suo, benché il suo modo di procedere fosse molto arruffato, benché la sua cucina sembrasse di solito messa a soqquadro dall'uragano, benché, insomma, per ogni utensile vi fossero tanti posti quanti giorni all'anno, ciò nonostante, purché si avesse la pazienza di aspettare alquanto, veniva al fine il pranzo servito in bell'ordine e gustoso, in modo da soddisfare pienamente il palato di un epicureo. Era allora solita dei preparativi per il pranzo. Dina, a cui allora occorrevano lunghi momenti di riflessione e di riposo e che amava sempre i suoi comodi, stava sdraiata sul pavimento della cucina fumando una vecchia pipa che le era molto cara e che la accendeva quasi un incensiere allorché aveva bisogno di ispirazione. Era questo il modo col quale Dina invocava le muse domestiche. Intorno a lei stavano seduti vari membri di quella fiorente gioventù di cui è sempre gran copia nelle abitazioni dell'America meridionale, sgusciando piselli, mondando patate, pelando polli e uccelletti o intenti ad altre minute occupazioni di simil genere. E Dina interrompeva di quando in quando le sue importanti meditazioni per dare con la mestola sulle spalle ora questo, ora quello dei suoi giovani coadiutori. E in verità Dina governava tutte quelle teste lanute col dispotismo e pareva credesse che costoro fossero stati creati apposta per risparmiare i suoi passi, come diceva lei. Miss Ophelia, dunque, dopo aver esaminato col suo occhio scrutatore e riformatore le disposizioni della casa, entrò in quell'istante nella cucina. Dina, che aveva già saputo da varie fonti quale piega prendevano le cose, risolse di stare sulla difensiva e mettendosi a capo del partito conservatore, pur eschivando un'aperta lotta, risolse di opporsi apertamente ad ogni nuovo provvedimento, considerandolo come non avvenuto. La cucina Era una vasta stanza con l'impiantito di mattoni e un gran camino all'antica che occupava tutta una parete. St. Clair si era inutilmente affaticato a voler persuadere Dina che gli sostituisse dei fornelli moderni. Nessun conservatore di qualsivoglia scuola o partito s'attenne mai così tenacemente come Dina agli inconvenienti consacrati dal tempo. Quando St. Clair aveva fatto ritorno dal nord, ancor pieno di maraviglia per l'ordine e la regolarità che spiccavano nella cucina di suo zio, aveva largamente provvisto la sua di tutto quel che poteva essere di aiuto a Dina nella imitazione di quelle virtù. Ma purtroppo l'aumento fattovi di cassetti e di armadi non servì ad altro che ad accrescere i tenebrosi ripostigli nei quali ella poneva alla rinfusa cenci, pettini, scarpe rotte, fiori finti di vecchi cappelli, vecchi nastri e altri oggetti che formavano la delizia del suo cuore. Allorché Miss Ofelia pose piede nella cucina, la vecchia nera non fece neppure l'atto di muoversi e, continuando a fumare tranquillamente, ne guardava con la coda dell'occhio ogni movimento, simulando bensì di essere tutta intenta a quanto facevano i negrettini intorno a lei. Miss Ofelia principiò la sua ispezione aprendo una fila di cassetti. «Che cosa riponete in questo cassetto?» domandò Miss Ofelia. «Di tutto, signora», rispose Dina. E l'asserzione era esattissima, a giudicarne da ciò che quel cassetto conteneva. E Miss Ofelia ne tirò fuori prima una bella tovaglia damascata macchiata di sangue che evidentemente aveva servito a involgere della carne cruda. «Che è ciò, Dina? Siete forse avvezza a porre la carne dentro le più belle tovaglie?» «Mio Dio, tutt'altro! Ma poiché non mi capitava altro alle mani, presi cotesta tovaglia e la misi poi in quel cassetto per lavarla.» «Che sbadata!» pensò Miss Ofelia e diede principio ad una regolare perquisizione del cassetto. Vi trovò prima una grattugia e 2 o 3 noci moscate, un libro di canti metodisti, molti fazzoletti sudici, lana da far lavori a maglia, una calza cominciata, una pipa e del tabacco. Poi alcuni biscotti, un paio di salsiere di porcellana dorata piene di pomata, 1 o 2 vecchie scarpe, un pezzetto di flanella in cui erano avvolte con gran cura 5 o 6 cipolline bianche, molti tovaglioli damascati, strofinacci da cucina, alcuni aghi da rattoppare e finalmente molti giornali rotti dai buchi dei quali uscivano fuori varie erbe odorose. «Dove tenete le noci moscate, Dina?» domandò Miss Ofelia col piglio di chi preghi internamente che Dio gli conceda pazienza. «Ma un po' dappertutto, ne troverete in cotesta tazza da tè screpolata, negli armadini. Ve ne sono anche qui? Di certo, le ho messe lì stamani perché mi piace d'aver sempre le cose sotto mano. Ehi, di che ti occupi, Jack? Bada al tuo lavoro, pigraccio!» E in così dire Dina allungò una mestolata. «Che è questo?» le domandò Miss Ofelia mostrandole la salsiera con la pomata. «Signore Dio, è il grasso per i miei capelli?» rispose Dina. «L'ho messo lì per averlo alla mano.» «Come? E per questo vi servite delle salsiere?» «Oh, avevo tanta fretta, ma oggi per l'appunto l'avrei tolto.» «Ecco dei tovaglioli damascati.» «Sì, li ho messi lì per farli lavare.» «Ma non avete altro luogo dove tenere i panni sporchi?» «Eh sì, il padrone Sinclair ha comprato questa cassa, perciò, ma si dura fatica ad aprirla perché sul coperchio faccio la pasta e inoltre è sempre piena di vari oggetti.» «Ma perché non fate la pasta sulla spianatoia?» «Oh, è così ingombra di piatti, cazzaruole, pentole e altro che non vi rimane mai posto libero.» «Ma voi dovreste lavare le stoviglie e rimetterle al loro posto?» «Lavare le stoviglie? Io?» esclamò Dina che stizzita cominciava a smettere il suo fare rispettoso. «Se ne intendono così le signore dei lavori di cucina. Se passassi il mio tempo a lavare le stoviglie e rimetterle al loro posto, non si pranzerebbe più. Miss Maria non mi ha mai detto cose simili.» «Bene, bene. Perché si trovano qui queste cipolline?» «Ah, non me ne ricordo. Forse le avevo messe da parte per lo stufato di oggi. Non pensavo più che fossero in quel pezzo di flanella.» Miss Ofelia alzò la carta che involgeva le erbe. «Desidererei che la signora non toccasse queste erbe», disse Dina con un tono di voce piuttosto alto. «A me piace di porre le mie cose in modo da trovarle subito quando ne ho bisogno. Ma questi buchi nella carta non sono necessari.» «Oh, anzi, sono comodissimi per poterle scegliere più presto.» «Ma in tal modo le erbe si spargono nel cassetto.» «Sì, lo credo anch'io se la signora scompiglia tutto a questo modo», rispose Dina avvicinandosi un po' confusa alla fila dei cassetti. Se la signora volesse andarsene e lasciarmi tempo di far rimettere in ordine la cucina, ella ritroverebbe ogni cosa al suo posto. Ma finché le signore mi stanno intorno, io non posso far nulla. Ehi, Sam, perché dai quella zuccheriera al piccino? Bada che... Io metterò in ordine questa cucina e spero che voi, Dina, la manterrete. Signore Dio, Miss Ofelia, è questa una faccenda che riguardi le signore? Non ho mai veduto una signora far di tali cose, né la mia antica padrona né Miss Maria le hanno mai fatte, almeno né vedo che bisogno vi sia di farle. E Dina cominciò a camminare per la cucina con un piglio di maestà sdegnata, mentre Miss Ofelia metteva in ordine i piatti, vuotava in un solo recipiente lo zucchero diviso qua e là in una dozzina di vasetti, riuniva insieme i tovaglioli, le tovaglie, i canovacci e li mandava al bucato. Lavava, asciugava, settava tutte le cose con tale rapidità e perfezione che Dina ne era tutta maravigliata. Oh, se le signore del nord fanno tutte così, vuol dire che esse non sono signore, diceva sommessamente Dina ai suoi satelliti. Quando viene il giorno della pulizia generale, qui si vede ogni cosa in bellissimo ordine, quanto in qualsiasi altra cucina, ma non posso tollerare che le signore vengano a ronzarmi intorno e pongano tutte le cose in modo che io non so più come scovarle. Beh, per essere giusti con Dina, dobbiamo dire che a scadenze fisse ella era invasa da un vero spirito di riforma e di ordine. Si vedeva allora infiammata di zelo vuotare tutti i cassetti, mescolandone il contenuto e aumentando la confusione. Fatto ciò, Dina accendeva la pipa e ruminava i suoi disegni d'assetto, esaminando tutto e discorrendo sopra ogni cosa, intanto che i suoi sguatteri strofinavano vigorosamente gli utensili di rame. Per più ore ferveva un disordine babilonico e se qualcuno domandava che cosa significasse tutto quel subbuglio, ella rispondeva subito: giorno di riordinamento generale. E soggiungeva: vi par possibile che si possa andare avanti così? D'ora innanzi ci sarà ben altro ordine. Prenderò le misure opportune. Poiché Dina si illudeva grandemente a suo proprio riguardo, ella credeva di essere il tipo dell'ordine e se la perfezione assoluta non era in questo proposito ancora raggiunta, la colpa era degli sfaccendati della cucina e degli altri abitanti della casa, tranne lei sola, ben inteso. Quando tutte le stoviglie furono finalmente lavate, quando i tavolini luccicavano di bianchezza, quando tutto quel che poteva offendere gli sguardi era stato riposto nei cantucci più oscuri, Dina vestiva il suo abito di gala, si ornava il capo di uno sfarzoso fazzoletto di seta a guisa di turbante, si metteva un grembiule decente e mandava tutta la marmaglia fuori della cucina perché voleva conservare le cose in buon ordine. Questi accessi periodici erano spesso cagione di inconvenienti per tutto il resto della casa perché Dina si lasciava prendere da tale amore verso il suo rame lucente che era quasi impossibile indurla a farne uso, almeno finché l'accesso della pulizia durava nel suo pieno vigore. In pochi giorni Miss Ofelia stabilì in tutta la casa un ordine e un sistema rigoroso, ma in tutte le cose dove era necessaria la cooperazione degli schiavi, le fatiche di lei riuscivano a quello stesso fine che le fatiche di Sisifo. Un giorno ella fece appello al cugino: «È impossibile porre un po' d'ordine in questa casa», disse. «Mi pare che abbiate ragione», rispose St. Clair. «Sono tali il disordine, lo sciupio e la confusione che io non vidi mai altrettanto». Oh, non ne dubito punto. Non ne parlereste con tanta indifferenza se vi foste preso l'impegno di governare la casa. Cara cugina, vi dirò francamente tutta la verità. Noi altri padroni di schiavi siamo divisi in due classi, quella degli oppressori e quella degli oppressi. Noi che siamo di buona pasta e che aborriamo dalla severità, dobbiamo rassegnarci a grandi inconvenienti, poiché ci piace di essere circondati da una turba di creature inette, indisciplinate, ignoranti, bisogna anche sopportarne le conseguenze. Si vedono di rado padroni dotati di un tatto singolare che giungono a stabilire ordine e regolarità senza ricorrere a mezzi severi. Il cielo non mi ha concesso tanta grazia, cosicché ho preso già da tempo la risoluzione di lasciare andare l'acqua per la sua china. A me non piace che a quei poveri diavolacci si rompano le ossa con le battiture, essi lo sanno e ne abusano. Ma non c'è né tempo determinato né luogo né ordine e tutto va alla peggio. Mia cara cugina, voi altri nativi del polo artico attribuite al tempo un valore esagerato. Che importa il tempo a chi sa d'averne due volte più di quello che gli bisogna? In quanto all'ordine e alla regolarità, che importa a colui il quale non ha altro da fare se non leggere i giornali o stare sdraiato sul sofà, che il pranzo o la colazione si rechi in tavola un'ora più presto o più tardi? Ma vedete che stupendi pranzi ci fa la nostra Dina. Zuppe, stufati, arrosti, torte di frutta, creme gelate, ed ella trae tutto questo dal caos della sua cucina. Questo è un ingegno che ha veramente del sublime, a parer mio. Ma siate benedetta, se andiamo giù a vederla mentre fuma la pipa, sdraiata per terra, ordina e dispone tutti i preparativi di un banchetto, perderemo perfino la voglia di mangiare. Mia buona cugina, non vi prendete quest'affanno, è una penitenza inutile. Voi non fareste che inquietarvi e confondereste del tutto il capo a Dina, lasciatela fare a modo suo. Agostino, voi non sapete in quale disordine io abbia trovato tutte le cose. Non lo so. Ignoro forse che la spianatoia della pasta è sotto il suo letto e che la tiene la grattugia da noci moscate in tasca insieme col tabacco? Che vi sono 50 zuccheriere sparsi in ogni buco della casa, che ella asciuga le stoviglie un giorno con un tovagliolo, un altro con un avanzo di vecchia gonnella. Lo so, ma il risultato di tutto ciò è che Dina fa pranzi eccellenti, un caffè delizioso. Orbene, e dopo giudicarla come i guerrieri e gli uomini di Stato si giudicano, vale a dire, da successo. Ma lo sperpero e le spese? Oh, potete rinchiudere ogni cosa e tenere le chiavi. Datele provvisioni a poco per volta e non vi curate del resto. Eppure mi incresce, Agostino. Io non posso fare a meno di pensare che questi servi non sono, rigorosamente parlando, onesti. Siete certo che si possa avere piena fiducia in loro? Agostino diede in una risata, vedendo l'aspetto grave e pieno di ansietà che aveva sua cugina nel rivolgergli questa domanda. Cugina mia, questa è carina davvero, onesti, come se potessimo aspettarci tanto da loro. Onesti, essi naturalmente non lo sono, e perché dovrebbero esserlo? Che cosa mai al mondo può renderli tali? Ma l'educazione che potreste dar loro? L'educazione. Scherzate, quali buoni ammaestramenti darei ad essi? Ho forse l'aria di pedagogo? In quanto a Maria, senza dubbio, ella ha tanto coraggio che basti per ammazzare tutti i neri di una piantagione se io gliene lasciassi il governo, ma neppure a lei riuscirebbe di porre un termine alle loro marachelle. Non ve n'è alcuno onesto davvero? Oh sì, di quando in quando se ne trova uno formato dalla natura così sempliciotto, così schietto e così fedele che nessun cattivo esempio riuscirebbe a corromperlo. Ma vedete, fin dalla prima infanzia il fanciullo di colore comprende che non potrà far nulla se non di soppiatto. Bisogna che gli dissimuli coi suoi genitori, con la padrona, coi padroncini di ambo i sessi che giocano con lui, e si avvezza necessariamente e inevitabilmente all'astuzia e agli inganni. Non c'è da aspettarsi altro da lui, né egli deve essere punito per questo. In quanto all'onestà, lo schiavo è tenuto in uno stato tale di dipendenza e per così dire di infanzia che non vi è modo di fargli comprendere che cosa sia la proprietà e di ficcargli in capo che i beni del suo padrone non gli apparterrebbero neppure se riuscisse a porvi sopra la mano. Per parte mia, non vedo come i neri potrebbero essere onesti. Uno come Tom è un prodigio morale. E che avviene delle anime loro? Oh, di questo io non mi impiccio, rispose St. Clair. Io non mi do pensiero che della vita presente. Noi altri crediamo generalmente che tutta la razza sia abbandonata qua giù al diavolo per la maggiore utilità nostra in questo mondo, che possa derivarcene poi nell'altro. Ma è un vero orrore, esclamò Miss Ophelia. Dovreste arrossire di voi stessi. Non ne vedo la ragione. Noi ci conformiamo a principi abbracciati dalla maggior parte degli uomini. Osservate ciò che accade sulla Terra. Dovunque le classi inferiori sono sacrificate, corpo, anima e intelligenza, al benessere delle classi elevate. Così avviene in Inghilterra, così in tutti i paesi. E nondimeno tutta la cristianità ci riguarda con virtuosa indignazione perché noi facciamo le cose con una piccola differenza dagli altri. Una tal cosa non accade nel Vermont. Certo, ne convengo. Nella Nuova Inghilterra e negli Stati liberi voi siete ordinati in miglior modo di noi, ma. Oh, ecco, suona la campanella. Ora, cugina mia, lasciamo un po' da parte i nostri pregiudizi locali e andiamo allegramente a pranzo. Venuta la sera, Miss Ophelia si trovava nella cucina e intese gli sguatteri gridare. Oh, guarda, ecco la vecchia Prue che viene brontolando secondo il suo solito. Una donna di colore, alta e magra, entrò nella cucina portando in testa un cesto di ciambelle e pagnottine calde. «Oh, Prue, ben arrivata!» disse Dina. La Prue aveva nel volto una singolare espressione di stizza e la sua voce pareva un grugnito. Pose giù il suo cesto, sedette sul pavimento e, appuntati i gomiti sulle ginocchia, disse: «Oh, signore, sarebbe meglio fossi morta!» «E perché vorreste essere morta?» domandò Miss Ofelia. «Così sarei liberata dalle mie miserie», rispose tristemente quella donna senza alzare gli occhi da terra. «Perché dunque vi ubriacate sempre da meritarvi le frustate?» disse una bella cameriera meticcia che parlando scuoteva i suoi pendenti di corallo. La donna le lanciò uno sguardo irato e disse: «Ci verrai forse anche tu fra non molto a questo grado di sventure. Allora sarei contenta di vederti. Sì, sarei contenta. Allora tu godrai al pari di me di bere un gocciolo per dimenticare la tua sciagura.» «Venite qua, Prue», disse Dina. «Lasciate vedere i vostri panetti. La signora è qui per pagarveli.» Miss Ofelia ne prese un paio di dozzine. «Vi devono essere alcuni buoni in quell'orciolo rotto su quell'asse laggiù», disse Dina. «Montavi, Jake, prendili e portali giù.» «Dei buoni? E a che vi servono?» domandò Ofelia. «Noi li compriamo dal suo padrone ed ella ce li cambia con pagnottine.» «Oh, mi contano il denaro e i biglietti quando torno e se qualcosa manca mi flagellano senza ombra di pietà.» «E fanno bene», disse Giovanna, la vispa cameriera, «se vi servite del loro denaro per ubriacarvi.» «E lo farò sempre. Io non posso vivere in altro modo. Bevo per dimenticare la mia infelicità.» «Oibò!» fece Miss Ofelia. «Rubate al vostro padrone per abbrutirvi? Oh, fate male!» «Avete ragione, ma farò sempre lo stesso. Vorrei essere morta e fuori così da tanta miseria.» E la povera donna si rialzò a stento e si rimise la cesta sul capo. Ma prima di uscire guardò la meticcia che agitava tuttavia i suoi orecchini. «Tu ti credi bella con quelle cianfrusaglie e tentenni il capo e guardi la povera gente dall'alto al basso? Che importa? Tu puoi vivere tanto a lungo da diventare una vecchia creatura pesta ai flagelli come sono io. Spero che sarai ridotta a questo punto. Allora vedrai se non riuscirà di gran sollievo ai tuoi mali il bere e il ribere e poi bere ancora, stolta che sei.» E con un ghigno maligno la donna uscì. «Sozza bestia», disse Adolfo, che veniva a chiedere un po' d'acqua calda per il padrone. «Se ella fosse mia schiava, gliene farei dare anche più di quante ne riceve.» «Non sarebbe facile», osservò Dina. «Il suo dorso è tutto macolato. Ella non può nemmeno allacciarsi la veste per le piaghe che la coprono.» «Mi pare», disse Giovanna, «che non si dovrebbe permettere a simili creature di entrare nelle case di persone da bene. Che ne dite, signor St. Clair?» soggiunse, crollando il capo leziosamente verso Adolfo. Convien dire che, non contento di appropriarsi vesti e altri oggetti del suo padrone, Adolfo era solito prendere anche il nome e l'indirizzo di lui, e il titolo che assumeva nei crocchi di gente di colore era quello appunto di signor St. Clair. «Io sono pienamente della vostra opinione, Miss Benoir», rispose Adolfo. Benoir era il nome della famiglia di Marie St. Clair, al cui servizio era Giovanna. «Di grazia, Miss Benoir», soggiunse Adolfo. «Mi è lecito domandarvi se questi orecchini verranno alla festa da ballo di domani sera? Sono proprio belli.» «Mi meraviglio che la petulanza di voi altri uomini vada tanto oltre», disse Giovanna, scuotendo la sua graziosa testa e facendo sentire di nuovo il leggero scoppiettio dei pendenti. «Io non danzerò con voi in tutta la sera se mi fate ancora di simili domande.» «Oh, non sarete tanto crudele, voglio sperare», disse Adolfo. «Io mi struggo dal desiderio di sapere se vi si vedrà comparire con la vostra bella veste color di porpora.» «Che c'è?» disse Rosa, leggiadra serva meticcia che in quel momento era scesa giù dalla scala. «Questo signor St. Clair è tanto insolente.» «Sull'onor mio», disse Adolfo, «lascio che ne giudichi Miss Rosa.» «So bene che egli è piuttosto sfacciato», disse Rosa, posandosi sopra uno dei suoi piccoli piedi e guardando maliziosamente Adolfo. «Spesso egli mi costringe a montare in collera con lui.» «Signorine mie», esclamò Adolfo, «voi volete fra tutte e due farmi il cuore in pezzi. Una di queste mattine sarò trovato morto nel mio letto e la colpa sarà tutta vostra.» «Sentite come parla quest'impudente creatura», dissero le due giovani con uno scroscio di risa. «Orsù, via di qua!» strillò Dina. «Non mi piace che si venga a fare del chiasso intorno a me.» «Zia Dina è imbronciata», disse Rosa, «perché non può andare alla festa da ballo.» Non mi importa un fico dei vostri balli di gente di colore, replicò Dina, dove non fate altro che scimmiottare i bianchi, ma in fin dei conti siete neri, al pari di me. Tuttavia, Dina si unge ogni giorno la chioma cresputa per renderla un po' più stesa, fece Giovanna. Ed è fatica sprecata, quei benedetti capelli sembrano sempre lana, soggiunse Rosa, scuotendo maliziosamente i suoi lunghi e serici ricci. Forse che agli occhi del Signore la lana non vale quanto i capelli, replicò Dina. Domandate un po' alla padrona chi ha più valore, o una coppia di ragazze come siete voi, o una sola donna quale sono io. Via di qui, non vi voglio tra i piedi. La conversazione fu interrotta. Si udì la voce di St. Clair dall'alto della scala domandare ad Adolfo se voleva fargli aspettare fino a domani l'acqua per la barba, e nell'istante medesimo, uscendo Miss Ophelia dalla sala da pranzo, disse: Giovanna, Rosa, in che perdete il vostro tempo laggiù? Venite a finire le vostre faccende.